Che freddo, che freddo! Che problema è? Non capisci il problema è? E allora? 60 minuti. Bella, sta lì. Oh, io non c'è, se non verrà nessuno, boh, lo rispetto. Troppo caldo c'è adesso, no? C'è sempre la gente. Sul tardi sono entrati. Ma io tardi porto il cane, poi mangio, quindi poi non accendo più. Una volta che passano le 8:30, poi vado già a portare il cane. Vai, cuocco, ma sei tu? E tu sei per il bella. Caterina Caldarella. E che te usa Falcone? Mamma mia, col naso. Cappagappa. Boia, guarda male, oggi c'è qualcuno, dai. Ho sentito qualcuno, io l'ho acceso, questo deve essere troppo caldo, non lo sa, non fa venire voglia di modulare, già è brutto stare in casa col caldo, a me mi piace andarmene in giro, andarmene al mare, cosa, adesso domani me ne vado al mare, domani mattina, presto, faccio dalle 8 a mezzogiorno e poi me ne torno. Fai bene, troppo caldo c'è, perfetto già, la sera già c'è sempre qualcuno. Solito io, Natalino, Marco, così due chiacchiere a quest'ora facciamo, poi stacchiamo, magari poi riprendiamo, capito? Però c'è troppo caldo, anzi, io sono a casa molto molto fresca, ma sono una settimana che non sento Antonio Bovaraccio, c'era un caldo in quella casa lì. No, io adesso sono riuscito un po' con la corrente a fare areggiare un po' la casa, ma nel caso sempre, c'è poco da fare, riuscire ad andare in giro adesso a quest'ora è ammazzante. Sono andato a fare delle fotocopie nella cartolibreria che c'è via Baldetta, cattane a caso, ho fatto due fotocopie perché ho cambiato il dottore, adesso devo portare tutto quanto alla Baradaci Cicocco. Ma lo tu hai balle quando si cambia il dottore e tutte cose. Sono stato costretto perché è andata in pensione la mia dottoressa, se no era in gamba. Ha chiesto di lasciarla, invece non gliel'ho dato l'ok, capito? Non può più fare l'attività. È la stessa cosa della dottoressa tu, quella di mia moglie, io vabbè c'ho a Gervasi, da Pasquale. È la stessa cosa, è andata in pensione, poi si è passato con passata con Besove, col fratello di Aino, quello della Cerbara la Torre, Antonetto. Molto bravo, ci conosciamo, però sempre impegnato, Gatto, mamma mia, Gatto, perché anche in politica, capito? Oh, ma dove c'era la mia dottoressa, l'ha preso un altro dottore, io mi avevo messo quello, ma dal primo giorno che sono andato ci ho bisticciato, perché sono andato per prendermi le pastiglie e mi ha detto che non me le dava, perché non c'era piano terapeutico, la mia dottoressa ha detto, lì non si preoccupi che passo tutta la documentazione io a lui, quindi non c'è problema, sono andato lì e non gli avevo dato nulla. Però il problema non era mio, era una cosa burocratica loro. E ho detto, lei sta mettendo la burocrazia con la salute di una persona. Io ho finito le pastiglie, sono diabetico, devo prendere per forza le pastiglie. E alla fine mi ha detto che lui non regalava pastiglie a nessuno, che non faceva documenti falsi e che non regalava pastiglie a nessuno. Un prepotente, uno strafottente. Infatti tutti quanti ce l'hanno cambiato. Alla fine gli ho dovuto chiamare i carabinieri, capito? La sanità sta andando in affanculo, allucinante. E poi ha avuto il coraggio di dirmi, se ne cerchi un altro di dottore che io non la voglio più qua. Ah, e poi c'era il rifugio. No, ma è lei che non sono io che me lo cercherò un altro, lei che se ne cercherà un altro. Allora, se tutti i pazienti che c'erano con la dottoressa che ci hanno messo a lui se ne stanno tutti andando. Tutti andando perché li ha trovati in farmacia 4 o 5 se ne stavano andando. La farmacista ha detto, vedrai che rimane senza nemmeno un paziente quello lì, perché è un caffone. Basta fare la segnalazione all'ordine dei medici. Ma posso così fare la diatta. No, non è un medico, capito? Cosa mi ha detto? A me mi sono mi sono venuti 400 pazienti tutti in una volta, le tenete a ringraziare che c'è dal lavoro, c'è gente che non è a di lavoro, così gli ho detto. 400 pazienti tutti una volta, se oggi a Buccia d'Arancio. Vabbè, pazienza. E ma infatti la dottoressa è mortificata, perché secondo me lei è una persona tranquilla, mi dispiace che ha trovato una persona così, ma io non lo conoscevo nemmeno. Mi ha chiesto se avevo un posto in ambulatorio, ho detto sì, c'è un ambulatorio libero, io ne avevo due ambulatori, uno lo tengo io per fare ricette, per fare documenti sportivi, perché queste cose le posso ancora fare. E qualche volta sostituisco anche a lui, capito? Però l'altro, ho detto, dottore, mi permetta di parlare, quello lì non doveva fare, ma col pastore, con tutto rispetto per il pastore, è un gran caffone. Dice, magari perché si è trovato con tanta gente tutta insieme, sì, magari un cavolo, io sono stato sempre gentile con tutti e voglio avere rispetto, punto. Ah, cosa normale, poi il medico deve essere un amico, perché il medico deve essere un amico, io ho un rapporto, tu baci con il mio medico, vabbè ci conosciamo la vita, però qualsiasi cosa, ci sentiamo per telefono, chiacchieriamo, facciamo. Ci deve essere un buonissimo rapporto. Se uno è così caffone, conviene mandarlo a cagare e basta. Ma sai quanta gente, anche delle amiche che ce l'ho lì, metto, oh già l'hai fatta metterti quel medico, io ci ho bisticciato, stavo a parlare, mio marito lo voleva picchiare, l'ho fermato io. Figurati tu. Cioè un'amica mia è tornata a casa piangendo perché l'ha trattata di capo, il marito si è incazzato, stava per andare a picchiare. Figurati tu, a bello punto c'è Marilindi, andiamo dove andiamo? Tattali. Ehi, già sono qui, ero con il piede a mollo perché mi si è gonfiato, e mia moglie mi ha suonato il coso invece di prendersi le chiavi, fangualla. In alto non devi tenere la tassa. Già lo so. Non cammino manco, lo sartampella da lì. Oi. E da che cosa? La circolazione? La botta, chi si botte di merda. Mi hanno fatto scaldare il piede e me l'hanno gonfiato. Bisogna... Anche a Franco gli aveva fatto la stessa cosa, ed è la scarpa. Innoravona. A me quelle altre fortunisti che mi hanno fatto uscire tutte e due le unghie e dei pollicioli nei piedi. A me le scarpe antifortunistiche non mi hanno fatto uscire così, no? Mi hanno disintegrato, io c'ho una fascite plantare, cosiddetta talonite in italiano, causata proprio, contattata dall'ortopedico, dalle scarpe antifortunistiche, sono una merda. E a me ma tutti facciato un dive ludidumanno di rubedi in chili al fianco, me l'ha tutto scorticato, le scarpe antinfortunistiche. Perché c'è il ferro e purtroppo col ferro non va d'accordo la carne, si sfrega e succede quello. A me mi ha fatto, sicuramente mi facevano anche sudare in eccesso, perché mi si è fatto tutto il dito rosso, e poi ho visto quest'unghia che mi stava uscendo, sono andato a fatto soccorso e mi ha detto, no, ma l'unghia la perde, mi ha detto. L'unghia la perde perché si è scaldata e cose con la scarpa toccando il ferro, e mi hanno fatto un certificato come io non dovevo mettere scarpe antifortunistiche. Io ero esempio. Anch'io l'avevo fatto, ma quando era già troppo tardi. Vabbè, poi mi facevano sempre il tallone, ho fatto malattia dall'origo e mi ha riscontrato questa fascite plantare. Adesso infatti ho il plantare per correggerla. Già va tutto bene, ma prima non potevo appoggiare il tallone per terra, la rottura del barre. Vabbè. Vira che sei architetto, cazzo, se ti vedi che non va via le volte antinfortunistiche, che guai. Ma se hai l'esenzione, Natalino, non devi fare nulla, se sei esente, non ti può fare nulla, c'è la certificazione del dottore. Ma già. Io non ne avevo, no. Cosa? Guarda, vabbè, se così va bene, sto 4:30, ma ho toccato il micchino, così meglio va. Sì, così va bene. È bella forte, però non è troppo forte. K-Gap. E io me l'ho fatto fare dal medico del lavoro, il certificato. Cioè dal medico del lavoro mi ha dato l'esenzione al medico del lavoro, ma il dottor Sale. Mi ha detto stia molto attento quando prende pesi, roba del genere, non c'è che ricadano sui piedi. E io ho detto mandatemi. Anche a me mi ha fatto il dottor Sale, mi ha fatto la visita. E appunto mi faceva male il piede, mi aveva fatto un foglio per andare dall'ortopedico e poi avevo fatto l'esenzione. Ma che buon dottorsale c'aveva? E allora, dico il lavoro non per dottorsale. Certo che sì. È quello che c'ha l'ambulatorio dove c'è il dentista Delfino, eh? Io vengo sotto casa tua lì. No, quello è Salis, non è Sale. Salis, sto confondendo io allora. No, sotto casa tua già. Lì, c'è il laboratorio di analisi. No, dottor Sale è a Porto Torres. Ti ricordo che c'è la bugia prima, a Porto Torres, sotto quel porticato. In quel portone lì è dottor Sale. No, sto confondendo io. Dottor Salis, lì, via Valdetta. Sì, via Moris. E dottor Salis c'ha un bel gente, c'ha forestale, vigili urbani, quelli della nettezza urbana, insomma chi più ne ha più ne metta. C'ha ditte che lavorano a Porto Torres, perché ho trovato degli amici lì di Porto Torres, ho detto, vai, ma che mi sto facendo la visita? Beh, se il medico del lavoro, le visite non le facevamo lì, ogni sei mesi. Ogni sei mesi analisi, tutto, sangue, urine, tutto li facevamo. E anche io spingo il manometro, analisi del sangue, delle urine, tutto quanto ci facevano fare. Perché tra banchincella quindi li facevano fare anche lo spingo il manometro. Sì. Guarda, tetanica, tutto fatto io, tutto lì, dottor Salis. Era un bravo medico, pure molto alla mano, molto, molto tranquillo, cioè bravo. E prendi per carica, arrivo subito, va bene, sta morendo di sette, bevo un bel freddo. Ma sai che è nato il 20 ottobre? Oh, quindi come noi, no? Sì, il 20 ottobre, come me, come con lui. Ah, sì, come il 20 ottobre. Sì. Lui è un anno più grande di me, ha 63 anni, è un anno più grande, perché è nato lo stesso giorno che sono nato io, lo stesso mese. Sì, del 58. Vinco io che sono del 57, e boom. Sì, va bene, sta lì. Ancora siamo giù vincitori. No, assai, no. Cazzo, con questo dolore che c'ha la gamba mi devo fare la lasca adesso. Come vado da questo dottore, io ho tutta la documentazione, c'ho l'oxartrosi, capito, la gamba. E cosa vuoi che ti dica? Già, tutti da rotta massa, prima abbiamo fatto gli spavaldi quando travagliavamo e a panno non esibimmo né per noi né per l'altro. Lo so, purtroppo. Prima la regava minore che ti l'ambulanza, ma poi mi va regata in un. E a me mi sono appuntato un paio di voci, ero sicuro. A me solo una volta quando sono uscito dall'ospedale che mi hanno operato, mi hanno portato l'ambulanza a casa. E ti dico che sono molto bravi, quelli della misericordia sono persone veramente in gamba, molto alla mano, molto sensibili. Mi è piaciuta molto quell'associazione. Mica. Signore, a me già due o tre volte mi hanno portato in ambulanza. Cazzo, ma io grave però. Sì, vabbè, ma quando ti sei fatto un giro, dai, hai provato l'emozione che facevi provare tu. Cazzo, è vero, me. Quando non vedo ossigeno, mi ammetto, quando mi è giunto l'infarto, la vagazza azzurra, non va via l'ossigeno, ma ne vuoi la macchina, io non l'intendivo. Staccamene questa maschera e ossigeno non ce n'è. No, noi avevamo l'impianto, avevamo l'impianto sotto al sedile, avevamo due bombole, capito? Chiusa una si apriva l'altra, quando finiva una apriva l'altra. Era proprio tutto lo stesso impianto con due bombole. Ehi, va bene, però non ce n'era, era scarica. Quando mi è successo l'affare a me, la Croce Blu era quella. Ma la no? La Croce Blu mi ha portato lì, all'ospedale. questa nuova croce blu, quella che c'è vicino a Antonio, là. Ehi, della Seghissa. È bella salve, quella dove eravamo noi non c'è più, non esiste più, la vera croce blu era quella dove eravamo noi. Già lo so. Oh signore. Ossigeno non è a verba, no? Tu cammina, io che non ce la faccio più a giudizio, se no che arrivo molto. Noi avevamo due così sotto un sedile e una portatile di ossigeno. Una volta è successo che da un trasporto si è trasformato in urgenza. Stavo trasportando da un ospedale all'altro. Vedi come succede, gli dicevano per i trasporti già te lo puoi portare uno che non è molto, diciamo, che non ha esperienza, e invece non è vero, io lo dicevo sempre, si può trasformare sempre in urgenza, lì siamo cominciati a rantolare, abbiamo attaccato l'ossigeno e l'abbiamo portato con l'ossigeno, poi staccato da lì, ho preso il portatile e ho attaccato il portatile per portarlo bene. Ed è così che si deve fare, invece quando io alla Croce Blu con quelli che adesso hanno quella pass soccorso, prima erano i dirigenti della Croce Blu quelli lì, e c'ero anch'io lì, a crepa di uno di ribadroni, abbiamo preso uno di rianimazione, prende e gliele stacca la bombola dell'ossigeno e non prende quella portatile, quando siamo saliti in rianimazione cazzo è entrato in arresto cardiaco. No, quella è negligenza di chi sta lavorando. Noi avevamo quello portatile che lo usavamo vicino all'aspiratore, rimaneva. Quando usavamo l'aspiratore e poi attaccavamo l'ossigeno, prima aspiravamo, magari se c'era sangue per attaccare l'ossigeno. E quello lì lo tenevamo sempre pieno, anche quelli quando si scaricavano lo potevamo subito a caricare, non ne lasciavamo mai buio. Eppure quello lì, cazzo, per colpa di quello lì gli ha giocato il candaro quando si mise a mandarli da rianimazione. Ha detto, ma cazzo, ma quando mai mo di fare il pagna ossigeno? Ma dimmi tu, se uno deve usare, infatti guarda, con chi sono andava sai da cogliono. Ma da lì, quando si fanno questi tipi di lavoro bisogna avere testa lavorando, perché non hai pacchi, c'è persone, bisogna avere testa, ma c'è gente che lo fa così all'acqua di rose il lavoro. Io ho sempre fatto corsi, tutto quanto, e ho fatto sempre quello che dovevo fare, però c'è gente che... Ma sai che Gianfranco è entrato alla Croce Rossa? E chi Gianfranco? Quello che aveva la pasticceria, ti ricordi? In via Graziale Reda, non voglio fare con me. Io ho capito. È entrato ufficio alla Croce Rossa. Via, dai tu. Ha girato, rigirato, poi ha fatto concorso, poi ha detto che gli hanno fatto fare dei corsi fuori, e poi adesso sei operativo, stava già lavorando. Ci siamo visti l'altro giorno al quadrato, ci ha comprato la moto grossa, c'ha quella che va a Claudio, come si chiama, la Honda Orme. E quella è bella la moto, leggera. È l'Orme, poi la guida è bella dell'Orme, perché non è bassa, capito? Non è di quelle da strada che sono con una lunga bassa. Avanti, Claudio. Sto muovendo un bel pezzo. Stavo ascoltando. Sì, loro entrambe la guida, per me era l'unica moto che riuscivo a... non mi stancava la schiena, l'altra che avevo mi stancava. E ha fatto un bel pennalotto Gianfranco, un bel pennalotto, e la Croce Rossa dello Stato, dipendente statale, ha finito di soffrire. Lo so. Vabbè. Diciamo che già l'hai riconosciuto, sì, modulava anche Gianfranco. Sì, certo l'ho conosciuto. Sì, è andato, sarà un annetto che c'è. E prima era soccorso a Sardo e poi se n'è andato, ha fatto i corsi e cose, e è riuscito a entrare in... Beh, ma lì si entra per concorso, se l'ha fatto vuol dire che è un bravo operatore. Auguri, la Croce Rossa devi sapere tutta la memoria. In realtà lì quando ho fatto il corso del BLS c'erano anche quelli della Croce Rossa, e io facevo tutte le manovre, tutto quanto, e basta, facevo quello che dovevo fare. invece quelli della Croce Rossa parlavano, dicevano adesso facciamo il massaggio cardiaco, facciamo per dire due sufflazioni e 15 massaggi, adesso il paziente lo posizioniamo, ecco la linea, ha detto scusa, ma qua non stai facendo la lezione, devi fare una prova d'esame, non stai facendo la lezione. E mai dire hanno abituati così. Ehi, sapevo tutta la memoria. Io pure quando ho fatto il corso sapevo tutta la memoria. Ma giù il diploma, no? Sì, vabbè. Sì, ma dico, loro lo ripetevano, capito? Io facevo per dire massaggio cardiaco, tutto quanto, come diceva avanti l'altro, cosa. Tornando via, vedi, loro descrivevano, tutto quello che facevano lo descrivevano, capito? Sì, infatti. Erano abituati così. Cosa vuoi che ti dica? Io riuscivo a fare il massaggio cardiaco con una mano e riuscivo a fare pompare l'aria correttamente. Vabbè, la manovra giusta è farlo con due mani, una mano lo puoi fare, la manovra giusta è farlo con due mani e incrociare le dita e farlo con due mani. Diciamo la giudizia dallo sterno e poi per il massaggio, ma vabbè, una cosa in più quella lì, perché loro te lo chiedono con due mani, devi metterti a fianco al paziente, ginocchiato, e farlo su un piano duro, eccetera eccetera, tutte cose vabbè che saprà anche tu. Beh, certo che adesso io ho fatto spaventare gente, nel senso che facevo segnare il manichino con una mano e di controllenti mia baita si segna conmigo e non pigliavo né misure né nulla, io sapevo appunto con una mano sola lo facevo. Come cazzo fai? Manico bighere. Sì, vabbè, ora ce ne facciamo più nulla perché voglio rinnovarti ogni due anni. Io voglio dire, se succede un incidente o una cosa del genere non potremo anche intervenire con le manovre, anche se le so fare, perché bisogna rinnovarlo ogni due anni. Quindi se tu non lo rinnovi ti scade automaticamente come se non ne avessi. Lo so, infatti noi non possiamo intervenire perché poi è tutto cambiato, mi hanno detto. Sì, prendo la sacca, dice lui non può fare le sufflazioni. Le sufflazioni non sono più obbligatorie, ci farò 30 massaggi. Ma la cinese me le faccio fare io. Io faccio quella bocca a bocca, però solo se muore la tipa. No, io con i maschi no, con le femmine sì. A te ti diamo qualche vecchietta. Vabbè, perché se magari ti capite già una rottoressa, una rottoressa che ti soccorre, finisci invece, dici da noi, da 120, mamma mia. Io la taglia addirittura c'ho dal primo soccorso, c'ho il diploma dal primo soccorso, sino BLS, BLS di trava, poi basta. E vabbè, e cosa vuoi fare, intanto, ormai siamo vecchi. È quello che mi succede sempre, che quando vado fuori mi capitano sempre incidenti. L'altro giorno ce n'era uno vicino a Graziella, una ragazza in moto, di quelle moto che pare di zanzare, che sono imitazioni di moto grosse, di moto da strada. Si è sbattuta, questa macchina si è fermata lì, non passano mai macchine in quella rottatura, quindi ci puoi passare dritto tranquillamente. Invece dice che in quel momento è passata la macchina, quello si è fermato di colpo e quella ragazza si è sbattuta e ti ci dovrà careggio. Un casino è quella rottonda. Ma io dopo gli va, perché quello si è bloccato di colpo, è successo. Me l'ha vista all'ultimo momento girando, capito? L'ha detto lui stesso, ha detto guarda, la ragazza non è stata proprio, io l'ho vista all'ultimo momento, ho frenato di colpo lì, era, deve essere troppo attaccata, non ce l'ha fatta, si è impappinata, buh. Però sembrava che non avesse nulla, dai, l'hanno caricata, l'hanno immobilizzata. Comunque adesso c'è il 911, come in America, chiamano il 911 e intervengono tutti quanti, i vigili del fuoco, carabinieri, tutti insieme. Ci fate ancora due casini, mi sono fatti. Sì, quando un incidente è grosso, per lì si vedono tanti feriti, le macchine messe male, capito, che ci riesce a aprire, ma sta a fare 911, ti rispondono i carabinieri e mandano i vigili del fuoco tutti qua. Vabbè, c'è un caldo fuori ancora, minchia, meno male dentro si sta bene. Ma c'è una dieta piacevole, perché ho fatto fuori corrente, anche se batti male, ma... No, non c'è aria calda fuori, sta meglio dentro. No, ma qua praticamente dalla parte della sala la mattina c'è il sole e c'è l'ombra dall'altra parte e viceversa la sera, capito? Quindi se tu fai un po' di corrente vedrai l'aria fresca dalla parte, io sono dalla parte del giardino. Sì, va bene. Ascolta, ma niente sai, non ho più sentito più a caro, niente sai se l'ha portata a riparare la radio. No, non ho più sentito nemmeno io, sì, l'ha portata però dovevo ordinare i pezzi, perché non ce li aveva. E un bel po' di pezzi li sta cambiando. Probabilmente c'è stato qualche problema. Dice che è stata data la corrente a 12 volte, invece era a 9 che bisognava darla, sul 9. Però ha detto che già li trova, li ha ordinati dalla Cina, da qualche posto, che ci mettono un po' a arrivare. Perché? Non mi ha detto più niente. No, è un bambino che li ha messi a posto. Mio, è bravo. Se pensi che ci vogliono le mette. Già li ha messi a posto. C'è una radio ok. Va bene. Avanti, Natalino. Di cazzo. E cosa vuoi che ti dica? Mi pare che mi cocca che non ne posso più. Se devo andare pure a festeggiare il compleanno di mia moglie, cosa cazzo ha? Di un ghiaccio così. Ui. Natale in un posto vicino, vai, qualche pizzeria vicino. No, l'hanno invitata, l'hanno. Perché devono festeggiare anche una laurea e il compleanno di mia moglie. I vicini di casa e quei dottori lì. E vai, tanto stai seduto, là. No, no, non posso stare con le scarpe strette così, troppo a lungo. Oh. Ah, io magna che dura. E da voi mi ci gioco. Così mi faccio l'insulina. Allora, giusta. No, è che c'ho il piede gonfio. No, a giù ma non entra nella volta. È un casino. E se non la giovane, mamma mia come. No, Giovanni fa lunga, roba via. Sono giornate che è bello uscire la sera tardi, andare a farsi venire la Protamona, a prendersi un po' d'aria, così è bello. Cosa vuole la Protamona, già, Fagoscia? Qua come cara al sole, ci vuole la maglietta fuori, già, mi scelgo fuori in veranda, c'è tutto. Non serve, non serve niente andare a prendere a bocca a questa aria fresca di campagna, ma si fiacco, non so come si dice, proprio stanco. Forse il caldo che ti butta giù, anche dopo pranzo io, quando c'è fresco, mi sdraio, anche qua in cameretta, mi sdraio, è un'oretta di sonno, mi sono sdraiato, poi lo fa mezzo disagio, ma no, Pennandi, lui. A me mi rende proprio nervoso, capito? Sembra un'anima in pena, stare chiuso in casa con caldo è tremendo. Accendo il condizionatore, in casa si abita l'otite, dai, col condizionatore, ho dovuto fare la cura per l'otite. No, io non ne ho condizionatore già, tu dici che la differenza da dentro a fuori, stai proprio staccata da tutto, conventata benissimo, c'ho un metro e mezzo di corridoio che gira in giro alla casa di Carveglio, tutto isolato, non ho problemi per quello, però non sai cosa fare. Sempre mi adesso sei come ho ritratto qua sotto in cameretta, sotto la scrivania, bucato a panca all'aria perché c'è fresco, capito? Il vento è bello fresco, la casa è fresca, non si soffre. Rispetto a dove era prima c'è una patria qua, avanti era un caldo la sera, la notte non si dormiva, per carità, troppo caldo c'è lì, ma si sta bene, però non so. sai cosa fare, cosa fai? Tu, lasciami, come fare il sole verso le 8:30, mi metto a mazziare, poi cieni, guardi la televisione, tu, fin dalla lì. Prima si andava al quadrato, si giocava a pallone, si mangiava a casomarsi. Tu l'hai mai fatto, quanto mai si usciva, si faceva, ma adesso non ce n'è voglia per più, non ce n'è voglia, io esco tutte le sante mattine, verso le 9:30, così vado, mi prendo le sigarette, un caffè al Trise, sto una mezz'oretta lì, poi salendo passo a Roberto, due chiacchiere e poi mi rientro a casa. Tu, finiti giù. Ma dove c'è la signora Enrico? Non ci sono più i figli, eccetera, eccetera. Ho venduto tutto, ho venduto l'attività, ho venduto tutto. Hanno fatto il bar nuovo, si chiama nuovamente Bar del Quadrato adesso. Nuovo, completamente nuovo, buttato tutto a terra dentro. 4 mesi sono rimasti chiusi, 4 mesi. Completamente, anche un anno avete vari, sì, perché c'era il Covid. Completamente tutto rifatto, tutto, bancone, pavimenti, muri, impianto elettrico, bagni, tutto. Già, se ti dico che era un colpo di giorni, che dura, mi comprendi? Sì, quello già l'ho visto, dove stava nostra, ci stavo lavando. No, io prima con Natalino ci avevamo, ce l'accumo mai, te lo ricordi Natalino? Andavamo, cazzo, non finivamo di bere, subito, cazzo, arrivi a Edo, altro, cosa prendete di nuovo? No, ma adesso è tutto cambiato, sono professionisti, gente giovane, gente giovane, è un altro tipo di bar, nuovo, bello, c'è anche una mini ristorazione, un'altra guba. Sto dicendo che quel bar non è mai stato fatto, era 20 anni, sempre con lo stesso soffitto, sempre con le stesse cose. L'unico dirigente che era il soffitto, lascia perdere, mi hanno buttato tutto completamente, 4 camion di Mondezza mi hanno bugato da dentro, camion baromi, non lo toccare, un camion. Già l'ho visto che stavano facendo i lavori quando passavo. Sì, l'ho visto diverse volte, infatti guardavo per le tra magari ci sono ancora i figli che lo stanno facendo, invece l'hanno veduto. Non ci sei più entrato da quando l'hanno fatto. Sì, ci sono dei amici di Aria, certo sono entrato. Sono entrato sì, molto bello, tutto. No, sono ritirati, la sorella abita a Cagliari, non abita qua. Lei è sempre più grassa, non la quasi manca a camminare, la madre non so se è viva, morta, non l'ho più visti. Il signor Enrico l'ho trovato al cimitero, l'ho trovato dove l'hanno tumulato. Sì, beh, non c'è il signor Enrico, non c'è il buco. Quella che mi metà di mezzo mancanti. No, ma già, dall'ultimo anno che prima di mollare non ci stavo più entrando perché un paio di volte mi ha dato la cartina col rossetto. Una volta ho trovato un pelo nell'acqua gasata, ha detto boh basta, finiti giù, ciao, invece buon viaggio, non ci sono più entrato. E io mi ricordo ti regalavo un po' di bicchieri, eccetera, eccetera, perché tu i clienti fissi. Lo so, mi ha lasciato tanti soldi. Però poi alla fine mi avevo mandato un messaggio, che fine hai fatto, non ci sei più visto. Io avevo risposto che ero fuori per lavoro, giusto per me e basta. E poi nel frattempo hanno venduto, capite? Hanno venduto. E lì l'ho vista da poco la via Maria, ciao ciao e boom, niente di che. Io sono entrato con Carlo, mi sono entrato da poco, siamo andati a prenderci un caffè e sì, ho visto che è bellino, però dentro non sono entrato, dove facevano il karaoke eccetera, non ci sono entrato, ci sono entrato, sono stato solo al banco e basta. Ma non so se ne fanno karaoke, non hanno più bisogno di fare queste trattate. Hanno solo linee sentierali, non solo da palate, ma palate, pagamento cash, 150.000 euro l'attività l'ha venduta, mi serve già regalare da cash, e ci hanno speso 300.000 euro per metterlo, per farlo nuovo quel bar, ma chi ce l'ha, hanno tanti di quei soldi che tu non hai idea, ma di là un bel. Sarà volando bene adesso. Allora grande, vai lunedì a vedere. Però, capito, lì lavorava in Salvingara, lavorava di Sant'Antonio non vuole la vita dietro la cassa e uno al bancone. Tu vai lunedì, i cinque sono, i cinque. Perché c'è anche il caffè lì che è molto illuminato, come vabbè, uno da una parte e uno dall'altra. Siamo voluti andare lì perché non ce l'ho mai entrato, siamo andati. Sì, sì, Mario, il caffè ha mollato molto, ha mollato parecchio. Questo ha proprio ripreso la grande, ma ti ripeto, questi sono professionisti, questi hanno il Lex Sager Pepper in via Sproni, c'hanno altri due o tre bar, c'hanno il ristorante all'albero, non sono amici di Varia, capito? Sono amici di Varia, c'hanno un pacco di soldi, un bemmi, e ti dico solo che c'è il figlio di Giacomo Martino in mezzo, quindi. Ah, è meglio per loro, dai. Pensate che siamo bravi ragazzi che riescono a tirarci la clientela. Quando è così va bene. Anche il Real Caffè a me mi fa sempre piacere andare lì perché sono gentili. Quando così c'è il sole è bello anche stare fuori a prendersi il sole. E a volte fa piacere, dai, andare lì e stare un po' rilassato. Beh certo, quando un bar è... l'intera è buona quando tutto funziona bene e soprattutto c'è la pulizia, fa piacere andarci, sì, ma non vale pinghinoso, no, non ti fa piacere, già lo sai come la pensiamo, no? Ecco, io ho una figlia che lavora in quel settore, quindi è così, se il bar è pulito a me fa piacere andarci. Trovare il pinghinoso e non c'è feeling, preferisco non andarci, tutto qua. Martino che mi assento, ti lascio con Martino, 2 minuti. Sì, avanti. Mica, ma... è inutile, i soldi vanno dove ci sono i soldi. Natale, interessante è sapere fare girare, se uno è un imprenditore sa fare girare e fa girare anche bene. Non bisogna dire così, perché se magari i soldi vanno a uno che non va di là, si riprende tutto in una voce e magari non fa niente di buono, perché magari si vede infiduciato. Quando si vede i soldi in mano li spende, invece uno che conosce il valore dei soldi riesce a amministrarli come si deve e a creare l'impero. Sì, infatti. Quindi, sì, è vero che io mi ricordo di una persona giocando alle macchinette, 3 macchinette, ha vinto tutte e 3, non so se dirà a me. Che ha vinto tutte e 3, lui non me lo ricordo, non già. Eravamo insieme, io, tu e lui, a ottava. 9. Al bar di ottava. Ma non mi ricordo chi era la persona. Era la persona che di Nanna. E rispetto agli altri di Nanna. No, ci siamo compresi, no. Non ho capito un belino. Anda bene Meda. Vabbè dai, io mi sdraio un po' così metto il piede in alto perché sono a picci oggi. Ma Natale, ghiaccio se ne hai, vedi c'è anche un po' di qualche cosa con ghiaccio. Sì, ciao, mi stanno telefonando. Eppure il caldo mica lo fa Natale. Le donne quando sono incinta non riesci a gonfiare tutte le gambe. Oi, ciao Carlo. Ciao, chi sei? Antonio sono, che vuoi che sia? E Anto. Oi, vabbè. Che sei a lavoro. Ehi, a chi si vede? E avevo lo squelce basso, mi stavano entrando altri segnali e la voce non l'avevo ancora, non l'avevo focalizzata, diciamo. Ehi, che attaccato tocca fare nell'antenna? Da lì la devi togliere, Anto. No, a casa, sono cose sul tetto scendono l'antenna. Ieri stavo diventando scemo, se vuoi stazionare a casa 1,5. Ma e come mai? Magari si è ossidato qualcosa, magari l'attacco e quindi fa massa e ti salgono le stazionarie per quello. Era da Natalino, era tutto ossidato e nero pure. Mi devo dare un assidio, mi pongo pizza, non sono convinto che va meglio qua anche della Ringo. Quella la faccio tutta a pezzi, le prendo la lama d'acciaio e la lucido. Cosa ti prendi, una 5 ottavi dell'Assirio? Penso di no. È un'altra, allora, un'altra tipologia diversa da quella di Natalino. Sì, no. Però ne voglio mettere antenne troppo grosse. Al limite mi metto il palo più alto, vedi che già esci rumatessi. Ma a me mi basta, cosa che tu me ne voto di una 5 ottavi? Come faccio niente? È perché è troppo lunga magari quella. No. Adesso vediamo da cosa fare. Capito, già ce ne sono diverse tipologie, comunque se la vuoi più corta magari ce ne sono di ottime, sempre dell'Assirio o altre marche. Sì, mi sono già stancato la lemma, ne ho già avute tante lemma. Ma volendo so che è enorme, un'altra roba di dubbio vivo. È una cosa enorme, cazzo di voi non mi sarei messo la super lemma, che pompa anche forte, ma cioè, è una cosa mastodontica. Eh sì, già le ho viste quelle, sì, in effetti è grossa. No, ne metti una anche senza radiali, tipo la Game Master, magari se non prendi quella, penso che ce ne siano anche altre senza radiali. Sì. No, vediamo com'è, guardo le prestazioni, secondo com'è, me la devono dare la verità. Secondo com'è, ci metto quell'Assirio. Capito, se no adesso sento un sacco di gente parlare di queste Venom, non so, le antenne, che dice che vanno bene anche quelle. Eia. Sì, quella va bene, ce l'ha Franco con un forte. Già l'ho sentita, sì. Vanno bene, poi se la metti su un palo alto e insomma cavo nuovo eccetera, voglia. Io sto prendendo un palo alto, vorrei che pompare un volte, a casa voglio fare, smettendo un'altra faccio un lavoro un po' meglio, ne faccio un lavoro un po' migliore, la metto a stazionare a zero, la metto, sono convinto che spinge forte poi. Immagino di sì, con la radio che hai a casa, se ti fai una bella antenna con la discesa, che poi tu dal tetto, da quello che mi ricordo, a dove hai la radio non c'è molta distanza, praticamente ce l'hai sopra al tetto, così, Anto, mi ricordo bene. Guarda, l'antenna è lì e io sono sotto, ma non sai che cos'è, con poco capo, che cos'è? Cioè praticamente c'è l'antenna diretta, cioè. È per quello che io ho molta ricezione e sbatto molto forte, capito? Non so pensare con una 5 ottavi cosa succede, cioè praticamente c'è l'antenna diretta, cioè esce in scintilli da anch'io. Se attacchi lì davvero e se ci sono i piccioni li fai addosso. Adesso devo accenderlo un po' il bambino. Capito, io lo stesso, quell'altra radio, quella di Gianni, l'avevo portata a Morore a aggiustare da Albino e l'altro giorno mi ha chiamato, mi ha detto che aveva trovato i transistor e come aveva un attimo di tempo, però dice che ha trovato un sacco di pasticci all'interno, capito? Quindi stava rimettendo a posto tutto. Sì, già lo so già. Mi ha detto che appena, perché mi ha scritto su WhatsApp, capito? Appena è pronta che mi fa un video di come esce, capito? Perché lui c'ha una sorta di laboratorio quando ci sono andato a portargliela, capito, e ho visto che sul tetto c'ha una grossa antenna, non so che tipo di antenna c'ha, i radiali, capito, ma è bella grande, capito, e poi ho visto che neanche un'altra, penso che sia una VHF, qualcosa del genere. Sì, avrà su parlone, avrà. Probabile, perché è bella estesa anche come radiali, capito? E lui vive, praticamente c'è una palazzina indipendente, quindi ho visto che c'è una sorta di terrazzo, c'è il tubo là, telescopico, ed è sopra il tetto. È un po' lontano e Borole da qua. Borole è praticamente da Bonorva, sono 23 chilometri, non è lontanissimo, è dopo Macomer, perché Macomer sono 20 chilometri, però devi fare un pezzettino di stradina provinciale, però tu fai sempre 131, praticamente Borore è attaccato alla 131, sono solo dalla 131 al paesino, sono un chilometro e mezzo, non di più, neanche a 2 chilometri non ci arriva, e quindi arrivi subito. Io te lo do la forza, la parecchia, te lo dico io, te lo torno veramente a posto, perché ci vuole tempo per farlo, ma è una persona competente, se ti hanno mandato qualcosa è competente. Sì, me l'ha, diciamo, il suo contatto me l'ha dato Massimiliano, ma anche Claudio, che lo conosce, ne ha parlato bene, quindi, però già mi sembra competente, perché ha subito individuato qual è il problema e mi aveva scritto un messaggio, no, dicendomi cosa c'era, cosa non c'era, quindi quella la rimetterà a posto, penso, nel giro di una decina di giorni. Ci pittù, chi ci verrà a fare? Vabbè, non voglio sa commentare, che senza posto rimane. Le cose vanno fatte bene in quegli apparecchi, non vuoi da poco un anno. Carlo Romane. Poi ciao Cla. Antonio Cantarella. Ciao Claudio. Ti figuriamo da carrozzella. Senza ruote, senza pedizella. Ecco. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. Sì. Ma per radio c'è la colazione, Carlo, così. Va bene, va bene. Dal tempo di arrivare i pezzi, ma quando le mette mani albi, tranquillo, perché la radio funziona come prima. Sì, i pezzi mi aveva scritto che ce li ha, e praticamente ha detto che comunque dentro l'avevano manomessa, e insomma, e anziché rimetterla a posto l'hanno un po' stravolta, però già la rimetteva a posto lui. No, tranquillo, tranquillo, è un mago, tranquillo, ha avuto a che fare, ti dico che è bravo, sa quello che deve fare, dai. Non è un tecnico di laboratorio, comunque è un tecnico hobbista che se lo permette le mani e te lo mette a posto, tranquillo, non c'è problema. Ebbene, tu non ti si sente più, vogliamo il gatto in mansarda? No, ho fatto ieri sera. Ah, no, io no. Sono entrato così mia a trance, così si dice. A trance, 10 minuti, poi me ne vado, poi ritorno, così, perché non arrivano troppo caldo, certo, le radio. Ero già Simendi, ero. Perché? Per il caldo? No, perché l'antenna mi stava dando problemi, stazione ariante. Occhio mi col capo, tu, occhio mi, mamma mia, perché se c'è stazione ariante funziona male il capo, attaccati il baracchino. No, vabbè, 1,5 già si possono ancora tenere, infatti ho sceso di potenza, vabbè, però con l'antenna adesso non ce la faccio, la scendo giù e ne metto un'altra. Andala, adesso per i vestiti, lavori si fanno, io adesso appena un po' di tempo, sto meglio, invece è troppo caldo, si abbassa un po' la temperatura, mi metto le antenne, le altre due verticali, multibanda eccetera, le metto al posto sulla J-Pol perché ho spostato le staffe, e così per l'inverno, piatto di polo, per l'inverno sono organizzato, perché per l'inverno non possiamo fare più niente. Tempo brutto, casini, capito? Vai Carletto. Conviene, no, quando quando sono i giorni caldi, come oggi e ieri, insomma, se si alza quel maestrale non molto forte, allora già va bene, perché il maestrale porta via l'umidità e rinfresca, fa scendere la temperatura, per cui la mattina solitamente cala e rinforza la sera, ma se tu sei attento, magari la mattina ti fai tutto il lavoretto, lavori bene al fresco e alla sera è finito quando si alza il vento di nuovo, capito? Sto cercando H155. Ma non so se ce l'hai qua stasera, no, tu. Non penso, se non l'ha ordinato Fusaro, doveva portarlo, ma l'ho portato la Camille, H155. Capito? Forse anche H100, però non so se. Non so se lo ordina. Io non sono proprio a tempo. Avevo una ventina di metri di 213, buono, nuovo, nuovo. L'ho dato a Roberto per fare degli spezzoni dall'antenna al commutatore elettronico, capito? Quindi 5 metri, va bene. Quello si può fare. Però non ne ho altro, non so altro avverato. La Camille è un bel grosso. È più o meno come 213, leggermente più fine, però un altro tipo di cavo, c'ha una calza molto più robusta, c'ha una doppia calza, rivestimento in alluminio, il centrale rigido, un cavo a bassa perdita. Lo so, se non ne ho uno che è bello lo stesso, mi sa che me ne tolgo quello, c'è un'altra antenna sul tetto. RG58, non mi ricordo che, però dentro c'è il coso grosso, c'è il filo appena più grosso, dentro è tutto diverso, ne ho 10 metri, mi pare che mi pongo visto, ed è molto buono, se non c'è arrivato quello lì mi metto quello lì, vediamo un po' cosa scegliere. Ma per una decina di metri puoi mettere anche quello, se poi aumenti ti conviene che avrò bassa perdita. Tanto Fusaro l'H1000 lo vuole, 5 euro al metro, 5 euro al metro, è compreso? 5 euro al metro. Io l'ho pagato a 3,50 spedito, però una matassa da 50 metri mi avevo preso, 150 euro. 5 per 3, 15, 150 euro, spedito a 3,50 euro, capito? Quindi, cosa volete? Vedi te e fai camomilla, non si può comprare niente qua se sei. Cazzo, devo 213, ne ho 3,50 euro metro, mi ha detto. Ah, vai, esci, me ne accumulo, cosa cazzo, 3,50 euro metro non vedi dinamico. Figurati, 213 a 3,50, 5 euro al metro vuole per la Camille. Io l'ho pagato dalla maschera, ho pagato 3,50 spedito, 3 euro al metro il cavo più 50 euro al metro di spedizione, 50 centesimi al metro di spedizione. Quindi, perché è una mancanza, quindi vabbè. Me lo sono fatto mandare, ma questo l'anno scorso, quando ero ancora a Termonati, poi l'ho tutto recuperato e me lo sono messo qua. Capito? Ho fatto tre carte, uno per la mantova, l'altra tocca per la gettolla e l'altra per le due lì, basta. Il dipolo, quello dei 6 metri, ce l'aveva già al cavo, va bene così. Avanti Carletto, tutto a posto? A posto, a parte il caldo. Va tutto bene, oggi di riposo, domani c'ho anche un altro giorno e poi rientro di pomeriggio. Sì, Antonio, se magari trovi qualcuno che lo deve ordinare, una matassa da 50 metri, magari potete fare l'ordine, ve la dividete in due o in tre persone, anche dipende da quanto ne usate, magari prova a chiedere anche in radio, perché quel cavo già lo cercano in tante persone, perché più sottile, quindi perché da Fusaro sì, se come dice Claudio a 5 euro è troppo caro. Qua già c'ho l'RG8, c'ho qua, già va bene. Allora usa quello, tanto tu non hai molta discesa, per cui se non hai problemi di perdita eccetera, di disturbi eccetera, dovrebbe andare bene anche quello. Qua sto parlando. lì al lavoro? Beh, qua già ci passa già, le RG8, l'ho messa apposta. Ah, che va bene anche le RG8, ma io non ne parlo di più. Vedo subito che c'è roba, devo controllare in cucina per le pepite. Yeah. Importante usare il cavo che si ha al limite, così si fa fuori e poi un'altra volta eventualmente lo prendi, capito? Però se va bene quello che hai, provaci quello. Cioè, purtroppo là non lo posso mettere il cavo grosso, se no me l'avevi a borso. Là a casa, non li posso punire perché è un casino, perché se metto il cavo grosso è un casino, capito? Perché c'ho quel cazzo di orcernaio, se no devo bucare, fare, buni stucchi, cose, oi. Oh no, no, tanto tu già hai poca discesa, per cui vai su quello fino, già va bene. La voglia, se no 213 non l'avevi a borso. Forse renderebbe anche di più, forse. Metti un 213 tipo mitragliatrice. Qua c'è la RG8, guarda il suo, questo già va a bombare l'antenna, me sono accorto io. Vedi che adesso sono al minimo dei watt, sono. Con 5 watt vado il doppio, vado. Se salgo, pompa ancora di più, pompa. Cioè, e quando è a fondo scala l'antenna, no? Cioè, immaginiamoci, cioè, prima dovevo salire un po' di più, adesso con tutti i batti chiusi posso modulare lo stesso, perché l'antenna prende 2 volte di più. Ho capito, no, qua da me arrivi forte, perché da casa mia dove sei tu, in via Milano, all'inizio, diciamo la distanza in linea d'aria non è tanta, ma è tutto libero, capito? Quindi qua mi arrivi a fondo scala, ma anche da casa tua, Lo so. Forse da casa tua è più vicino. Pulante è partita. Adesso tu stai toccando quasi di più del P30, ma che ce li mancano? Cazzo, già va bene, a casa sì, 9.40 sì, l'ho visto bene. Ho capito, ho detto qualche ambulanza è partita, che lì c'avete la sede di quelle ambulanze del 118. Ah, si intendi col microfono a tavola? Sì, ho sentito che è partita. Cosa è quella che è pubblica assistenza? È Croce Blu. È la Croce Blu, ho capito. Sì, io ci passo quasi tutti i giorni lì da quelle parti. E io lo sto già. Il 16 ci vieni in via Sardegna, che deve fare il mio amico, deve fare le cose, il karaoke deve fare. 16? 16 è domani, mi sa. No, il 16 luglio. Ah, 16 luglio, sì, domani ero libero, il 16 luglio non ce li ho ancora in tutti. Però se sono libero già ci faccio un salto. E dove lo fate? In via Sardegna? Qui c'è la Guardia Medica. Non adesso, il 16 luglio parlo. Ho capito. E dove è vicino alla Guardia Medica? Lo so dov'è la Guardia Medica, io lì in via Sardegna. Appena più giù, c'è il Justin Club. Ah, ho capito, sì, perché lì ci vado, perché c'è l'oculista, c'è, come si chiama, Piccinini, come si chiama, già ho capito bene dov'è. Deve farla un amico mio, deve farla, forse devo dargli una mano, le devo dare pure. Adesso vediamo. Vabbè, già vedo. Facciamo una serata. Se sono libero, volentieri. Se non ho turno di mattina, magari già ci faccio un salto, dai. Già mi fa piacere. Se ricordamelo più avanti, già me lo ricorderò, dai, il 15 di luglio. Non ti ho detto 15, 16. O il 16 che sia, dai. Il 16 di luglio, dai. Già ci sentiamo per radio al limite. Ciao. Una bella serata, lo dico, lo dico, lo dico, lo dico. Per perché io sto ancora lavorando a luglio, però ho un po' di ferie, ma mi partono dal 22, dal venerdì, ma il 16 non lo so che turni ho, perché ancora non sono usciti quelli di luglio, ma già ti faccio sapere, Anto. Cappa, mica viene anche Luca, viene. Ci divertiamo, cavolo, siamo tutta una congrega, anch'io. Se va bene ci passo. Lo sto dicendo. Siamo tutto un gruppo di amici, siamo me. Quando